Ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. E tu non sei un uomo, Cruciano, non sei un uomo, perché non hai rispetto, non hai rispetto delle persone. Allora, sembra l'intercettazione definitiva, quella che riguarda Lupi, recita in questo modo. Lupi chiama Incalza che è quello arrestato, il grande RAS delle opere pubbliche in Italia, in pensione ma ricercatissimo, ancora consulente del ministero. Lupi dice: ascolta, se fra un quarto d'ora ti mando questo che è venuto da Milano a Roma a fare due chiacchiere, che dici? Risponde Incalza: chi? Dimmi tutto, dimmi chi. Nel senso di avere consulenze e suggerimenti, dice Lupi, e Incalza: dimmi chi viene, dimmi. Viene mio figlio Luca, dice il ministro a Incalza, e Incalza dice ancora: quando vuoi, ma figurati, nessun problema. Lupi: no, quando vuoi, dimmi a che ora te lo faccio venire, in modo che puntini puntini. O adesso o alle 5 quando finisce il tesoro, cioè quando finisce la riunione del ministero del tesoro, no? Insomma, alla fine Luca Lupi, figlio del ministro, va da Incalza e durante questo colloquio, subito dopo questo colloquio, Incalza chiama l'imprenditore Stefano Perotti, che è in affari col ministero e con il ministro Lupi, nel senso che il ministro attraverso le strutture del ministero affida dei lavori a questo Perotti e non solo, sono amici di famiglia. Alla fine questo Perotti troverà un incarico per il figlio del ministro. Il punto fondamentale è sempre lo stesso, lo ripetiamo. Come Incalza, come no, Incalza. Incalza fa quello che ha sempre fatto. Incalza. Signor Incalza, fa favori ai politici. Certo. Fa favori ai politici, favori, telefonate, raccomandazioni, piccoli favori. Queste robe qui non hanno rilevanza penale, esatto. Ma è la pratica purtroppo di tutti i ministeri e di tutta la tradizione italiana della politica. Sinistra, destra, uguale. Ma l'ipocrisia è che probabilmente Lupi domani mattina si dimetterà, almeno così sembra dalle notizie, no? Ma allora domani mattina si devono dimettere pure i sottosegretari, 4 del Partito Democratico, ufficialmente sotto indagine indagati, e deve rinunciare alla corsa a diventare governatore della Campania anche il signor De Luca, condannato in primo grado. Altrimenti l'ipocrisia di Renzi è massima. So che le cose sono diverse, adesso Parenzo mi dirà, le questioni sono molto diverse. No, dal punto di vista della forma è... Ma è così, non c'è niente da fare. Ma l'ho detto anche ieri. Sgarbi, sgarbone scatenato contro il nuovo centrodestra, ma non è una novità. Direi che se c'è uno spurgo di lordura è quell'NCD, DC che sia, che nasce da una costola di Berlusconi malata, di un incapace assoluto che si chiama, come si chiama quello lì, Alfano, che a Agrigento non ha mai fatto nulla di utile, cioè, che è ministro degli interni e ha osato, e lo porterei in tribunale, prorogare lo scioglimento per mafia grottesco del mio comune senza che ci fosse ragione. No, uno non può comportare, quello è un abuso d'ufficio sulla base di niente. Sciolgano Milano, sciolgano Roma. Non c'è niente da fare, Vittorione insiste su questa cosa qua, non si dà pace. No, ma ce l'ha con Alfano a prescindere. No, capito? Ma ce l'ha con Alfano solo per questa cosa che gli ha sciolto il comune di Salemi. Se non gli avesse sciolto il comune di Salemi, non farebbe così. Sentiamo ancora, Alfano deve dimettersi. Può essere ricattato in questo modo un premier? Deve dire: io scelgo i ministri, ne parlo con il Presidente della Repubblica e non tu, sporco di lordura. Ma che roba è? Alfano deve dimettersi, non quest'altro qui, questo nanerottolo di Lupi, ragazzi simpatici, ma allora, non sono degni di essere uomini di governo. Chiedo, non sono degni. Alfano, spurgo di lordura e lupi, nanerottolo. Nanerottolo. Poi è scatenato ancora, se a un certo punto spacca il cellulare per terra. Però prima sentiamo ancora su Alfano. Sono lì, sono lupi, torno a casa mia, datemi la mia poltroncina, ma che cazzo è? Agli interni Alfano! Mai Alfano agli interni! Al cesso Alfano! Va bene, basta, vi prego, basta! Poi gli squilla il cellulare e... Il tema politico era giusto. Vittorio, devi spegnere il telefono, sì, perché il tema politico era giusto. Eccolo. No, no, lo prendo io. Il tema politico era giusto, però c'è da dire una cosa. Il... Con la russa che prende il cellulare per terra. Vabbè ragazzi, tutti se la prendono con l'Arcigay di Bologna, che all'interno del circolo Arcigay ha realizzato dei manifesti in cui a un certo punto la croce è utilizzata come strumento sessuale nei confronti di alcuni vestiti da Gesù Cristo. Ora, per carità, ai cristiani farà schifo questa cosa e posso capirlo, per carità, ma non è che hanno fatto i manifesti per strada questi dell'Arcigay, non hanno messo enormi manifesti no, per le strade di Bologna. All'interno di un circolo dell'Arcigay ognuno fa il cazzo che vuole. Se vuoi fare i manifesti con la croce che infila nel di dietro di finti Gesù Cristo, e lo fai, chi se ne frega. Invece polemica politica, il comune che dà i soldi all'Arcigay per realizzare queste cose. A parte che secondo me il comune non dovrebbe dare un euro all'Arcigay, perché l'Arcigay si dovrebbe... Ma sei d'accordo che sono un po' offensivi? Ma sì, qualcuno si può... Non per me, che non sono certo... Ma qualcuno si può offendere? Certo che qualcuno si può offendere, ma sono state realizzate all'interno di un locale dell'Arcigay a Bologna. Questo può fare la differenza. Ma è quello, è... all'interno di un locale... Sì, ma parla più vicino al microfono, se no non si capisce una mazza. Questo manca può lo studio. Fare la differenza. Allora, il punto è fondamentalmente questo, cioè non è un altro. Poi questi sono costretti a chiedere scusa, travolti dalle polemiche, una cosa patetica. Vabbè, sì. Patetica, chiedere scusa, patetica. Sentiamo però Don Livio Fanzaga. Ditemi voi, che è più estremista, uno dell'Arcigay che fa un manifesto così, oppure il signor Don Livio Fanzaga, che è tornato all'assalto, che dice che l'utero in affitto è roba da marchionne, cioè costruire un bambino. Sentite, Don Livio Fanzaga, Radio Maria. The last three days. Usare la paternità, parlare di paternità con l'utero in affitto non mi va, cioè non è una paternità quella, è qualcosa di diverso. Forse se si chiede a Marchionne che si intende di come costruire le macchine, ti dà una risposta, meglio. Cioè, i bambini come le macchine costruite dalla Fiat, capito? I bambini che nascono con gli occhi, con tutto, anche se nascono con la madre surrogata, sono come le macchine della Fiat. Don Livio Fanzaga. Chi è più estremista, Fanzaga o questi dell'Arcigay che fanno un manifesto discutibile, ma insomma all'interno di un circolo, per fare polemica, riprendendo una vignetta di Charlie Hebdo e tutto? Dai, su. Oh, abbiamo con noi... Beh, starà godendo in queste ore, starà godendo perché sente l'odore del sangue scorrere, no? Il cittadino Giarrusso, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Dove sta a voi. Parlando? Buonasera, senatore, da una caverna? Buonasera. Da una caverna? No, la caverna è la mia voce, purtroppo, per l'influenza. No, penso che... Parla dalla taverna. Ma che, col viva voce, no? Tutta, sicuro, no? No, assolutamente. Oh, e in questi giorni siamo così, non c'è niente da fare. Siamo un po' sfigati. Ma si sente male lo stesso. Comunque, senta, ma ovviamente per lei lupi si deve dimettere. Cioè, ma le piace questa? Lei avesse di fronte Incalza, che farebbe con Incalza? Ma veramente è un bel dilemma, perché Incalza mi sembra feroce e pericoloso. Io ho letto le intercettazioni che riguardano. Sì. Il giornalista del Fatto, Lillo, che dice che bisognerebbe fare male a Lillo, sì, è vero. Fare sì. male a Lillo, ecco, francamente c'erano dei limiti che ancora non erano stati superati nel nostro paese. Sì, sì. Adesso io penso che con questi siamo arrivati oltre il limite del tollerabile e dell'ammissibile. Cioè, per cui con Incalza che bisogna fare secondo lei? Prendere la chiave, cioè in galera e buttare la chiave, che bisogna fare? Incalza sta bene dove sta. A Regina Coeli e ci dovrebbe stare per un bel po' di tempo. Purtroppo le leggi che hanno fatto gli amici suoi e che credo lui abbia contribuito a realizzare, perché so che dalle intercettazioni dava istruzioni ai parlamentari NCD sulla presentazione degli emendamenti e per giunta li rimproverava se ovviamente essendo gente di Alfano non era neanche in grado di presentare o fare andare avanti gli emendamenti, se li rimproverava eccetera. Noi abbiamo un intero partito che è governato non dal suo segretario ma da un burocrate inquisito che risale all'epoca di Craxi, proprio un muro. E che vuole, e lei dice che vuole poi picchiare anche un giornalista. Ma non ha detto picchiare, ha detto fargli male, che è una cosa differente. E in questo paese, dove i giornalisti sono stati anche ammazzati, sì, dove vengono minacciati, ma per cui non ho capito, in calza sta bene lì dov'è, per cui prende, chiudere in carcere e buttare la chiave. Basta, senza processo, alcun, forse. Ma senza alcun dubbio, ma il problema è un altro. Noi questo soggetto lo avevamo a capo della cabina di regia di tutte le grandi opere. Sì, sì. Lei si rende conto, non è che era nella bettola dietro l'angolo che stacciava. Per adesso però è innocente ancora, cioè... No, lo so che sarà sicuramente innocente, ma lei si rende conto, un innocente che dice che bisogna fare male a Marco Lillo? Lo so, questo effettivamente è brutta. A me preoccupa soprattutto per la posizione che aveva. Ma lei se lo trovasse di fronte, Gianrusso, adesso torniamo, ma se si trovasse di fronte signor Incalza, no? Cosa farebbe lei? Sparerebbe in aria. Che tipo di no? Che tipo di reazione avrebbe a questo? Voi provocate, ma voi provocate. Ma un po'. Ormai sparano tutti. Non ci sentivamo. Spara in aria lei. Ma l'hanno liberato dal lager il suo collega? Sì, caro. Sì, caro senatore. Senta, Mario, però c'è un'altra questione, cittadino. C'è un'altra questione, che è quella delle intercettazioni. No? Ma basta, chiamalo senatore. Senatore, è bello. Cittadino. A lei piace questi giorni in cui si vede la mannaia, no? Si vede le intercettazioni tutte spiattellate sui giornali, piace moltissimo a lei, no? No, francamente a me non piace vedere come si è ridotto il nostro. No, però secondo lei le intercettazioni si devono pubblicare tutte, immediatamente. Allora, mi ascolti, il fatto che le intercettazioni arrivino sui giornali è un problema, ma questo non vuol dire che dobbiamo togliere questo strumento come vorrebbero gli altri dalle mani della magistratura. Ho capito, ma sta storia di Lillo si è venuta a sapere dalle intercettazioni, non è che si è venuta a sapere da un'altra cosa. Allora, lei o è a favore della pubblicazione delle intercettazioni, tutte, sempre, quando finiscono nelle mani degli avvocati, io posso essere anche d'accordo, oppure no, cioè non è che può dire... Io sono per la libertà di stampa. E dunque per la pubblicazione di tutte le intercettazioni. Chi ha pubblicato queste intercettazioni ha reso un servizio al nostro paese. Ma lei la pensa... Ha fatto capire come funziona il potere. Come funziona il potere. Interna del senso del potere. Fermi tutti, chi traffico. Critica questa cosa. Chi critica questa cosa dicendo ma le intercettazioni non possono essere. È semplicemente qualcuno che ha qualcosa da nascondere. Ok, ho capito. Ma lei farebbe ascoltare anche le sue telefonate alla magistratura sempre, tutte o tutto il giorno? Ma già le ascoltano le nostre e c'è. Che c'è? Dai, quelle che ascoltano i vostri radioascoltatori. Ah, vabbè, che c'è? Ha ascoltato una nostra telefonata. Le telefonate, vabbè, le sue private le farebbe ascoltare senza problemi oppure no? Le pubblicherebbe? Non ho nessun problema. Vabbè, e così dovrebbe essere. Questa domanda. Cioè, i parlamentari. Aspetti un attimo. L'ha fatta il sindaco di New York. No, ai suoi burocrati che ha detto voi fareste ascoltare le vostre telefonate alla polizia? Sì, potete fare i dirigenti, no, quella è la porta, ve ne potete andare. Allora però voglio chiedere subito a Gianrusso un'altra cosa. I parlamentari dovrebbero avere i telefoni controllati continuamente per sapere che cosa fanno. Lei dovrebbe arrivare assolutamente sì. Questa della non intercettabilità dei parlamentari è una posizione di abuso. Cioè, secondo lei i parlamentari vanno controllati nei loro telefoni continuamente, a tappeto? Allora, i parlamentari sono al servizio dei cittadini e vanno controllati dai cittadini. Controllati dai cittadini. La magistratura svolge una funzione di legalità importanza straordinaria in democrazia. No, vabbè, ho capito. Secondo lei vanno controllati. Non è che senta, lei come consiglio. Quando lei parla con sua moglie, ma io voglio dire, gli dirà anche Gianrusso, lei gli dirà: amore, sono Gianrusso, il senatore tuo. Glielo dirà. Ci sarà un maresciallo che ascolta e poi. Le telefonate io le faccio con un certo parenzo e con il suo accolito. E sono veramente di contenuto infame. Vabbè, ma quello che c'è da quello. Nella rete. Senta. A volte che girano quelli, il resto è niente. Senta, Gianrusso, ma siamo alla follia. Ma comunione e liberazione, secondo lei che cos'è? Comunione e fatturazione. Vabbè, quella è una vecchia battuta. Stiamo cambiando. Secondo lei che cos'è? Non li liberano perché non gli daranno la liberazione anticipata, quindi preferiscono virare sulla fatturazione, almeno realizzano. Lei dice ormai è comunione e carcerazione, allora. Esattamente. Ma secondo lei è come la mafia? Lei è eccitato proprio. Allora, non è questione di essere come la mafia, è questione di avere un soggetto, Lupi, che era il loro riferimento. Vabbè, quello si sa. E avere dentro i principali scandali di questo paese la compagnia delle opere. E dunque? Noi abbiamo l'inchiesta mafia capitale e dentro ci sono le cooperative della compagnia delle opere che lucrano sui migranti. Abbiamo l'inchiesta della DDA di Catania. Dunque, come la considera CL lei? Come la considera CL? Come la devo considerare? Peggio della mafia, quasi. Guardi, ha espresso gente come Lupi, gente come il famoso Celeste che aveva Formigoni. 49 milioni di euro, sì, vabbè, adesso, e non sapeva nulla. Quindi evidentemente, siccome io ho delle vecchie reminiscenze della... Di che? Della parrocchia, l'albero si vede i frutti. Se i frutti sono gente ma come tutti sono così. Ma è un'associazione gente come cavalli, gente come cavalli. Ma è un'associazione a delinquere? L'albero è marcio se i frutti sono malati. Ma è un'associazione a delinquere secondo lei? Guardi, io sto dicendo, nel Vangelo c'è scritto che l'albero si vede ai frutti. No, ma quello l'ho capito. Osservi ai frutti, capiscono com'è l'albero. Ma NCD, per esempio, la considera una specie di associazione a delinquere? Lei. Guardi, noi abbiamo NCD che è nei due posti cardine del nostro governo, il Ministero degli Interni e il Ministero delle Infrastrutture. Ed è una cosa gravissima. Perché la Vabbè, gravissima, è un accordo politico, con Renzi. È una cosa gravissima perché la nostra sicurezza con uno dei peggiori ministri della storia del nostro paese, certo fare peggio di Sciacquoletta ce ne voleva, ma ci stiamo arrivando. E ci mette a rischio, e questo è un momento in cui i paesi occidentali Gianrussi, io vorrei da lei però che lei mi... fanno, tagliano però io vorrei da lei una definizione di cos'è secondo lei CL, perché lei la accosta molto al metodo pervasivo della mafia, senza volerlo dire. Questo lo sta dicendo lei, lo sto dicendo io, è lei che non mi metta in bocca cose che io carità. Non ho detto assolutamente. No, per carità, non sto dicendo lei niente. Lei pensa, sospetta che io potrei mai pensare una cosa del genere di che in Lombardia la mafia sia entrata con un'autostrada e un tappeto rosso steso e che il principale passaggio d'ingresso sia stata la sanità e che la sanità sia in mano a Comunione Liberazione. Sarà un caso. E allora? C'è è un cancro del nostro paese, CL? Ma senza alcun dubbio. Un cancro del nostro paese. Da quello che ha realizzato in questo paese. Ma ci sono migliaia di persone. Trasportare dall'Andrangheta tramite. È stato praticamente. Politi, Saladino, ce lo ricordiamo. Cioè, gli altri, l'Andrangheta è entrata negli affari grazie a CL, questo sta dicendo lei. Ma questo dicono le inchieste. Beh, no, questo dicono le inchieste. Non c'è nessuna inchiesta che dica una roba simile. A queste strutture, gli uomini collegati a queste strutture erano in queste inchieste. Sono in queste inchieste. Vabbè. No, vabbè, sarà un caso. Comunque, alla fine, Gianrusso. Però, rinuncia all'immunità parlamentare. Io non ho nessun interesse perché non ho amici in CL. Lupi, rinuncia all'immunità parlamentare per dimostrare questa cosa in tribunale. Se la dovessero querelare, lo rinunci tu. Dicevano, com'è che dicevano? Esatto. Va rinunci bene. Tu al diavolo. Arrivederci, arrivederci. Grazie, arrivederci. Vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse la lavatina di capo a te ti farebbe bene. Questo non credo. Allora ragazzi, sentite questo annuncio, secondo Magdi Cristiano Allam sarebbe alle porte una nuova invasione islamica in Italia e lui ricorda un precedente, quello dell'813, cioè veramente da ridere. Poi magari vengono adesso davvero gli islamici e distruggono tutto, però ragazzi, già nell'800, sentite. Ricordiamoci che già nell'813 una prima volta e nell'864 una seconda volta gli islamici arrivarono a Roma, devastarono e saccheggiarono la Basilica di San Pietro e la Basilica di San Paolo. E i nazisti avevano scritto Dio è con noi sulla cintura. E allora, su. In nome di Dio. Posso concludere per cortesia? I'm on the back streets. A sentito, i nazisti avevano nella cintura Gott mit uns, era Iraudo, parlamentare di Sel. Vabbè ragazzi, ma non si può evocare l'813 con gli islamici che devastano Roma, cioè. Allora, per Don Livio Fanzaga, che sostiene che i bambini nati dall'utero in affitto sono da paragonare a una macchina, ai pezzi di una macchina costruita, signor Don Livio Fanzaga, e meno male che lavora a Radio Maria Don Livio Fanzaga, cioè noi una radio cristiana, no? L'amore per i figli, cioè, secondo Don Livio Fanzaga la paternità è con l'utero in affitto una roba da marchionne, cioè sostanzialmente i bambini vengono fatti in fabbrica, vengono fuori come pezzi e non con gli occhi, con i vagiti, come diceva Luxuria, eccetera eccetera. Dai, su. Usare la paternità, parlare di paternità con l'utero in affitto non mi va, cioè non è una paternità quella, è qualcosa di diverso. Forse se si chiede a Marchionne che si intende di come costruire le macchine, ti dà una risposta meglio. Poi dice anche che il divorzio breve porterà alle famiglie. Si sta aprendo una strada, scrive la Croce Quotidiano, a un tipo di famiglia che potremmo definire on demand, cioè come le amicizie, no? Si creano e si sciolgono. Si potrà scegliere di entrare e uscire a piacimento, quante volte si vorrà, da un tipo di famiglia che si potrà scegliere tra i tanti modelli, in base ai propri desideri e ai propri gusti sessuali. Tranquillo che arriveranno anche le famiglie con gli animali. Ciò non farà altro che indebolire ulteriormente la struttura sociale. Le famiglie con gli animali, cioè per questi forte, signori dai, qua, scusa, no, ma, no, ma per questi ma signori sì. Qua, per questi signori qui, cioè tutto quello che è il divorzio breve, che facilita la vita alle persone, perché il divorzio breve invece certo. Di rompersi i coglioni per 5 anni come adesso, adesso lo vogliono portare a che? Lo vogliono portare da 3 a 6 mesi, non so che cosa vogliono fare. Comunque, il divorzio breve facilita la vita alla gente che altrimenti resta bloccata quando ha deciso di separare le proprie vite. Allora, invece di facilitare vogliono mettere le persone ancora più in difficoltà. Ma cosa c'entra il divorzio breve o le unioni gay, il matrimonio gay con l'unione con gli animali? Niente. Cosa c'entra? Panzaga, lavori a Radio Maria, una radio cristiana che dovrebbe accogliere. Poi quelli dell'Arcigay di Bologna che hanno fatto quei manifesti con la croce come strumento sessuale, che mettevano la croce nel sedere a dei finti Gesù Cristo, sono naturalmente parenti del diavolo. Dunque vediamo tre uomini vestiti da Gesù coronato di spine che si sodomizzano con una croce. Non so io, cioè, sono veramente parenti stretti del diavolo questi miei. C'è tutto l'odio del diavolo, ce l'hanno addosso, Non si era ancora giunti a un tale disprezzo della religione vetocaffara cristiana e di chi la professa da irridere tramite l'abominevole volgarità dell'immagine, persino la morte di Cristo in croce. Allora, ho ricevuto diverse mail su questo argomento. Un tale che si chiama Antonio Imeneo mi ha scritto: se io dico qualcosa contro i gay vengo denunciato per omofobia, i gay possono fare e dire quello che vogliono, nessuno dice niente, se vi piace così che vergogna, mi manda tutti i manifesti con questo che usa la croce come strumento sessuale, eccetera. Un altro: vedo questa pubblicità di una serata dell'Arcigay di Bologna e pur non essendo fervente cattolico e certamente non praticante ne rimango leggermente infastidito. Beh, ha ragione. Leggermente, c'è gente che ma no, ma va benissimo. Va benissimo tutto. E sai come la penso io? Con sì, gli ma amici, va benissimo, cioè, la croce, quello che vuoi. Sarà legno, quello, sì, ma sarà quello che vuoi. Il punto fondamentale. Sì, però si può dire che è di cattivo gusto. Ma doveva ma rimanere. A te fa schifo. Per me, io mi metto a ridere. Sono puttanate. Quando vedo questi manifesti con tre vestiti da Gesù Cristo, mezzi nudi, che strillano, urlano, poi, e uno usa la croce ma come che un fallo. Ma possa dar noia, sì, possa certo. destare fastidio, anche schifo, se vuoi, anche offesa. Scusa, ma io dentro casa mia. No, dentro questo è un altro discorso, allora, va bene. TG3, dopodiché, titoli. Siccome si sono diffuse queste foto. E vabbè, immagini, si sono diffuse perché allora la gente ne commenta. Ma no, per carità. TG3, titoli. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. L'ISIS ha rivendicato l'attentato di Tunisi, l'obiettivo era il museo, arrestate 9 persone. Secondo il ministro all'interno il comando aveva cinture esplosive. Il paese reagisce alla strage e alle minacce, migliaia di cittadini stanno partecipando alla manifestazione contro il terrorismo davanti al museo del Bardo. Sono 4 gli italiani che hanno perso la vita nell'azione di ieri. Solo nel pomeriggio di oggi sono state riconosciute tra le vittime 2 donne date per disperse. Quello di Tunisi è stato un attacco alla democrazia e alla cultura, doloroso e allarmante, così dice il presidente Mattarella in un'intervista alla rete TV americana CNN. Domani l'informativa di Lupi in Parlamento, subito dopo il ministro potrebbe presentare le sue dimissioni, mattinata l'incontro tra Alfano e Renzi. Il caso Grecia al vertice dell'Unione Europea, Schäuble e Varoufakis ai ferri corti, Merkel la soluzione è lontana, stasera a Bruxelles riunione d'emergenza. A 21 anni dall'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin saranno disponibili online i documenti dell'inchiesta, la madre Luciana è stato un omicidio concordato. Allora andiamo a Bari, Salvatore, vai. Buonasera. Dimmi. Sì, volevo agganciarmi al discorso, insomma, quello che tiene banco Lupi e la cricca. Ieri ero molto più arrabbiato. Oh, intanto avete sentito sì. Delle dimissioni di Lupi, no? Annunciate per domani mattina. La cosa più incredibile di tutta questa vicenda è che Lupi ha annunciato le dimissioni a porta a porta. Da Vespa, cioè, sì. Sì, no, ma esatto, è pazzesca come cosa. Esatto. Cioè, ha trasformato un elemento ovviamente negativo per sé. Dice, mi devo dimettere. Allora a questo punto, sai che ti dico? Mi dimetto da Vespa difendendomi, dicendo che non ho fatto una mazza, eccetera, eccetera, dicendo sicuramente che. Cioè, non lo dico alla Camera. Non vado alla Camera dove il giorno prima ha detto no, non mi dimetto. Esatto. Cioè, è una cosa pazzesca. Il giorno prima ha detto no, non mi dimetto. Tra l'altro, questi qua che difendevano Lupi anche all'interno del governo oppure tra l'NC, dove sono finiti? Che prezzo ha pagato Alfano per le dimissioni di Lupi? Cioè, che cosa ha ottenuto Alfano? Perché qualcosa ha ottenuto per le dimissioni di Lupi. Poi magari lo vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Comunque è incredibile che Lupi va alla Camera e non dice un cazzo, va da Vespa, a me non me ne frega niente, Vespa è bravissimo, quello che vuoi, va da Vespa e annuncia le dimissioni, cioè tutti i parlamentari dovrebbero essere incazzati. Salvatore, ma dica solo i parlamentari, dobbiamo essere incazzati noi, ma questi ci offendono, questi ci pigliano per il culo, cioè questo qua questi si deve dimettere e va a porta a porta ragazzi, sì, dai, ma su. Ma questi qui hanno dei metodi mafiosi, dicono io non ho raccomandato a nessuno. Beh, ma se per te, per tuo conto, ti raccomanda uno che dipende dalle tue labbra per l'assegnazione degli appalti, ma che cosa ci raccontano? Che cosa ci raccontano? Questo è un metodo mafioso. E il buon Giovanardi, che ieri avrei detto cose da denuncia, che quando parla la bocca nel migliore dei modi rutta, perché quando apre la bocca fa peggio, continua a dire fin quando non vi portate la, come tu hai definito, la pistola fumante. Ma questi veramente ci pigliano per scemi. Cioè questa Italia ha bisogno, e questo adesso Parenzo non ridirà, avrebbe bisogno delle leggi cinesi per la corruzione dei politici, che sono tanti, o la moralità giapponese. Nell'uno o nell'altro morirebbero, o sparati o per harakiri. Ecco. Ma sì, ma che cosa si merita, Giuseppe? Che cosa si merita? Capisco che ormai sparare all'ordine del giorno. Ma i paradossi li possono permettere. Cioè, Giovanardi istiga la violenza, non ho capito. Sì, Giovanardi, per quello che dice, offende noi e qualcuno si incazza, ma questo continua a prenderci in giro dicendo che non c'entra niente, che i politici sono bistrattati anziché favoriti nell'eventuale tentativo di raccomandare un loro parente, un loro figlio. Ma questo ci vede in giro. Va bene, Salvatore, grazie. Aldo, Milano. Aldo. Buonasera. Dimmi. Buonasera a tutti quanti. Volevo dire, in realtà, al discorso della raccomandazione, io dico che non è un reato, come non lo è magari... non è un reato in quanto io, da 12 anni, se non è grazie alle raccomandazioni, non lavoravo. Cioè, questo voglio Lei dire. In che settore lavora, scusi? Io sono guardia giurata. Ed è entrato segnalata, non raccomandata, diverso. No, diciamo che in questo campo non è che se fai la richiesta ti... Non ho capito, come funziona? Lei è una guardia giurata, per entrare in una società che fa questo servizio che cosa ha fatto? Vogliono le persone adatte che mettono il curriculum sulla scrivania giusta e... Vabbè, è un conoscente... persone adatte? Chi? Politici? Chi? No, politici, diciamo, conoscenze, insomma, ma che ne so, può essere... qualsiasi persona, cioè una persona amica una di quello che amica, di quelli che gestiscono le assunzioni in quella azienda di sicurezza, ma non solo adesso, ma anche in altri campi, come può essere l'operaio, come può essere l'impiegato in qualsiasi, diciamo, azienda. Se non io non è che dico ho fatto sempre questo lavoro. Vabbè, se non c'è una persona che conosce all'interno di quel posto lì è difficile. Beh, spesso non è che si fanno, come dire, concorsi, eccetera, eccetera. No, però dico non è male. Però ci sono ancora un sacco di casi di persone che mandano il curriculum, vengono chiamate e vengono assunte. Io ne conosco tanti, fermi tutti, fermi. tempi duri, eh. Non tanto per noi, che ne frega niente, nulla, zero. Allora, Renzi ha costretto Lupi alle dimissioni, anche perché la mozione di sfiducia nei confronti di Lupi sarebbe stata votata alla Camera e molto probabilmente sarebbe passata. È ovvio che se passa una mozione di sfiducia nei confronti di un ministro, in quel caso poi il ministro e il governo si deve dimettere. Per cui Renzi ha detto a Lupi: senti, amico mio, qui nel mio partito mi rompono i coglioni per questa roba qua. Io non ti farei dimettere, fosse per me. Però la situazione è questa, dimettiti. E Lupi si è dimesso dicendo anche che si può fare politica senza una poltrona. Da ridere, ma ragazzi, ma veramente ci prendono per il culo. Cioè, io dico la faccia come il culo. C'è uno via in televisione a dire: beh sì, la politica si può fare in mille modi anche senza una poltrona. Ma dai, su, ma uno si dimette, ma non c'è bisogno di dire queste cose che non, cui non crede nessuno. Nessuno può credere una cosa del genere. Nell'NCD poi, nell'NCD cornute che non sono altro. Questi sono dei cornuti. Voglio sì. Giovanardi, ieri da noi, tutti i padri italiani raccomandano i figli. Vai. Tutti i padri italiani farebbero la stessa cosa per i figli. Non c'è italiano che per il figlio non si farebbe in quattro per trovare un lavoro. Poi l'ipocrisia italiana è negare l'evidenza, perché l'Italia è un paese di ipocriti che vogliono negare sempre l'evidenza a casa degli altri. In Rai tutti raccomandati, eppure a Radio 24, dice il signor Juvanar. La Rai, sono tutti entrati raccomandati, mi scusi, certo che conoscevano qualcuno, è difficile che qualcuno entri in un posto, anche Radio 24 o in Confindustria o in Aula Rai, se non è passato attraverso un meccanismo di segnalazione che qualcuno conosce qualcuno. La cosa incredibile che ha detto è che in realtà i figli dei parlamentari, secondo Giovanardi, sono un po' discriminati, sì, perché la gente li guarda un po', no? Con l'occhio strano. Ha raccontato tutto un episodio che in banca non gli vogliono garantire i bond che ha fatto. I bond che ha fatto, perché praticamente, siccome sono garantiti anche sullo stipendio di Giovanardi, secondo Giovanardi il direttore della banca ha detto: no, tu sei un politico, dunque hai lo stipendio, come dire, ballerino, e dunque non ti posso garantire i bond. Cioè, una roba folle, lunare. E lui dice che i figli dei parlamentari in realtà vengono visti con una certa diffidenza nel mondo del lavoro. Cioè, se devono prendere un Giovanardi, magari prendono un altro. I figli dei parlamentari oggi molte volte, invece di avere, come è stato storicamente, delle realtà positive, trovano diffidenza, proprio per il meccanismo che lei, che voi avete segnalato, che state segnalando, di cui state parlando. Vabbè ragazzi, andiamo a Marco Caserta. Marco da Caserta, poi c'è Viola, se non sbaglio, Viola come mia figlia, vai. Marco. Pronto? Sì, dimmi. Sì. Ciao, tanti auguri per San Giuseppe. Non ce ne frega un cazzo, vai Marco. Ma già è vero che San Giuseppe. Non me ne frega una mazza, zero, proprio zero totale. Vabbè, tu sei apatico, credo. No, non sono apatico, non me ne frega niente. Posso dire che devo essere appassionato di San Giuseppe. No, non me ne può fregare di meno. Che ti devo dire? Sì, no, volevo dire una cosa su merito a l'espressione che aveva enunciato Don Gonzaga. Fanzaga, non Gonzaga. Gonzaga. I Gonzaga sono una cosa, Fanzaga è un'altra. Tanto bastardi Gonzaga. C'erano una volta. Certo. Allora? Vabbè, lui intendeva che non c'è sentimento in queste applicazioni. Senti Marco, sì, però adesso sono le 19:40. Se ci devi fare arrivare il latte alle ginocchia con questa, con questa considerazione o con questa voce così melliflua, così piana, così bassa. Questa è la sua. Ho capito, Marco. Però allora, tu dici che abbiamo interpretato male le parole del signor Fanzaga. Allora, in realtà, lui potrà avere detto questa cosa qui. Quello che viene fuori è che i figli, secondo Don Livio Fanzaga, Radio Maria, grande speaker, il principale di Radio Maria, è che i figli vengono fuori come macchine, come oggetti, e non è così come dalla da una fabbrica. Vabbè, ma non mi interessa quello che intendeva, quello che si è capito è questo. E se intendeva quello lo sa lui nella sua testa cosa intendeva. Questo sì, quello che abbiamo capito tutti è che secondo lui i figli nati dalla procreazione assistita, dall'utero in affitto, sono figli finti, cioè rispetto a quegli altri, sono diversi da quegli altri, invece sono uguali, sono identici. Sì. i figli. Vabbè, sono stati fatti in maniera diversa, c'è il problema del padre, della madre, di chi riconosce chi, del seme, tutto quello che vogliamo, ma una volta usciti sono figli. Pure Ferrara l'altro giorno da noi ha detto: una volta che nascono sono figli come gli altri. Invece Fisiologicamente sì, ti do ragione. Ma è così, tutto, non puoi dire che sono fatti in fabbrica, no, perché non sono fatti in modo diverso, ma alla fine sono uguali agli altri, non sono macchine che escono dalla fabbrica, dai. Sì, però tu non dimentichi la fisiologia poi di queste persone. Cioè, secondo te una persona che nasce così, come fa ma quello è un altro discorso, un carattere. Come avere un carattere? Che vuol dire? Che sono menomati? Che nascono menomati? No, non ho capito. Ma no, menomati. Ma fai sempre il confondimento. Ma che ne so, uno va fino in fondo, deve andare a quello che dice. Con il fatto intellettuale. Vabbè, personale. Ho capito perfettamente, Marco. Matteo da Varese, vai, Matteo. Matteo? Pronto? Sì, dimmi. Ciao. Senti, innanzitutto buonasera a tutti. Chiamavo in riferimento prima al senatore Giarrusso, Giarrusso, in riferimento alla questione di CL. Allora, CL, accostarlo a l'associazione dei lingue. No, ma stasera che ci avete? Che vi è preso stasera? Vanno dato un Valium, eccetera. Dai, su, vita, forza, Matteo. Lasciami parlare. Allora, CL è un movimento di educazione alla fede. Le scelte personali di quelli che appartengono, tipo Lupi, che poi sono da dimostrare, non c'entra niente con il movimento di Comunione e Liberazione. Quindi Lupi non c'entri niente con Comunione e Liberazione, questo non credo. Ci sono una serie di interessi di caritativa. Ma quello che c'entra? Ma nessuno nega questo. Nessuno nega questo. Ma io poi mica ho detto le stesse parole di Giarrusso. Che devo dire? Che il tuo amico Parenzi prima ha detto una cosa giusta, cioè che esistono migliaia e migliaia di persone. Io li conosco, militanti di CL. Esatto, conosco, sono stato tante volte a Rimini. Perché se passa questo messaggio è una falsità. Ma nessuno vuole far passare il messaggio. Qui siete fissati che qui si vogliono far passare messaggi. L'opinione di Giarrusso che il movimento di Comune Liberazione sia, non dico un'associazione criminale che non l'ha detta, però no, insomma. Ma insomma cosa? E l'accostamento alla sanità? Ma è quello che ha fatto lui? Ma è quello che ha fatto lui che me lo dice a me? L'ha fatto lui? Che c'entro io? Ho capito, ma se dice una stronzata bisogna dire guarda, stai dicendo una stronzata. Ma quella è la sua opinione. Ho capito la sua opinione, cosa vuol dire? Non è che le opinioni va sempre tutto bene comunque. Ma ha detto una cosa accostando l'Andrangheta a CL, al ruolo di CL, lo quereli. Viola da Genova, Viola. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Ciao, dimmi. Volevo dirvi che voi siete come i siti porno online, YouPorn. In che senso, scusami? Se si conoscono si è rovinati. Addirittura. E questo è successo per me con voi. Cioè perché all'inizio sei rovinato? Vi detestavo. Sì. E ora dipendente dalla adesso sei dipendente, cioè quasi ti masturbi, quasi ti masturbi ascoltando la zanzara. No, beh, non esageriamo. No, vabbè, no, ma non so, magari può succedere. Pronto? Chi è? Beh, comunque, no, non sono io. Allora? Bene, mi piacete come trasmissione. Vabbè, allora? Siete rasentate il porno e oltre anche. Ma qualche volta succede, qualche volta può succedere. Allora? A tratti il mio moralismo così ne risente, però. Sì. Vabbè, dunque. Mi avete liberato. Cosa ti abbiamo liberato? Gli istinti? No, non gli istinti. Diciamo, ascoltarvi mi ha fatto capire che tutto sommato anche il turpiloquio può avere un suo ruolo, può giocare un suo ruolo. Sì, ma lei si rende conto di questa follia, no? Abbiamo iniziato alle 18.35, sono le 19.45, credo che parolacce dette zero, turpiloquio zero. Eppure lei sta dicendo che il turpiloquio le piace, va benissimo. Ma non è vero, una cazzata questa qua. Ma a me non mi dà fastidio per niente, tra l'altro. Fermi tutti, mi scrive signor Dino Giarrusso. Che vuole Dino Giarrusso? Che dice, hanno fatto bene. Pure te c'è Arbalium addosso. Hanno forza. Fatto bene a dimettere Josefa e Lupi, idem. Fabio da Milano, vai. Fabio da Milano. Agghiacciante questa. Vai. Allora, hai capito o no? Sì, Josefa, idem. Sì. Le intercettazioni spuntate oggi, ho sentito su Radio 24 stamattina, un monsignore pugliese di Comunione e Liberazione. Che ha fatto assumere il nipote dalla Combriccola alle Ferrovie del Sud-Est e poi l'ascoltatore dove alle Ferrovie di che cosa, scusa? Ferrovie del Sud-Est. Ma quale Ferrovie del Sud-Est? Che so le Ferrovie del Sud-Est? Ferrovie pugliesi del Gargano, come si chiama? Vabbè, un monsignore Monsignor Francesco Gioia, citato stamattina in vittima sul raggio 24 intercettato, che ha raccomandato il nipote a queste benedette. Ma non mi sembra una cosa nuova, cioè il monsignore che raccomanda il nipote, cioè una cosa che si vede da, e si sente da 50 dei anni film di Camilla in Italia, cioè... comunque allora no, ma per carità è gravissimo, allora, è gravissimo io, no, ma l'utilizzo della croce è peggio quello che fanno i gay di Bologna o è peggio quello che fanno bravo, i gay di Liberazione? Bravo, mi bravissimo, mi fanno schifo, hanno rotto i coglioni. Fabio, lei sta parlando all'auricolare oppure in qualche altro modo? Perché stasera fa scadere un casino, qua. Con che sta parlando? No, con l'auricolare? Con no, che cosa? No, col telefono, normale. Ma no, perché non si sente una mazza, comunque si sente lontano. Comunque, Fabio, io voglio capire una cosa. Che cos'è che le fa schifo? Questo uso della croce, questo uso della tonaca, questo uso della chiesa, giusto? Bravissimo, bravissimo. Quel prete lì di Radio Maria, il primo essere indemoniato, è lui che dice quelle cose di bambini che sono anime di Dio, casomai. Per chi ci crede. Va bene, Fabio, ho capito, grazie. Sposetti? Sta al Senato, mi sa. Pronto? Ugo? Sì. Sono Cruciani, come stai? Bene. Senti, ma ho letto stamattina che ti sei paragonato alla Caritas. Sì. Ti volevo chiedere semplicemente perché hai fatto questo paragone con la Caritas. Perché io sono buono, mi faccio carico di tutti i problemi. Cioè, uno che incomincia a lavorare c'ha 1.138 miliardi di debiti, e porta avanti un partito e fa mangiare tutti, la cosa è più della Caritas non c'è, no? No, ma perché tu parli delle segnalazioni? Cioè, è normale ma che un politico fanno, chi ha fatto il mio lavoro da 45 anni che ha fatto? Cioè i politici è normale che segnalino le persone? No, politici, a me è capitato tante volte. Uno che ha fatto il mio lavoro da 45 anni e ha svolto anche ruoli di governo negli enti locali e poi lavoro parlamentare e poi soprattutto il lavoro che ho fatto a partita, ma è chiaro che ho trovato davanti a situazioni anche difficili, no? Poi, no, questo ho capito, ma uno non fa l'ufficio di collocamento, lì in quelle intercettazioni si dice che sostanzialmente tu fai l'ufficio di collocamento, lo dice quello là. No, quello dice che lui fa l'ufficio sì, di sì, lui fa l'ufficio di collocamento per conto tuo. Vabbè, ma no. Ma beh, proprio no. Così sembra no, l'intercettazione. No, questo è proprio fuori. Non è così. Non è così. No, non fa l'ufficio di collocamento. No. Però scusami, Ugo, è normale che un politico faccia segnalazioni su persone? Secondo me lo fanno anche non solo i politici. No, che non lo facciano solo i politici, d'accordo, ma un politico dovrebbe fare attività parlamentare, non cercare di piazzare persone qua e là. Scusa, se a te tu incontri una persona non conosciuta o conosciuta che ha una situazione temporanea di difficoltà, tu cerchi di aiutarlo? Ma sì, però io non prendo lo stipendio dal pubblico, è diverso, non sono parlamentare, l'attività parlamentare non è, no, perché sennò è l'Italia degli anni 50, degli anni 70, degli anni 70, degli anni 80, cioè è quella in cui il lavoro principale del politico diventa piazzare le persone. La crisi che c'è, se c'è una situazione di difficoltà, che fai, ti giri dall'altra parte? Ma non è solamente la questione di difficoltà, tu no, che hai... No, mi devi rispondere, no, perché sennò qua non... No, gli puoi dire fai domanda di lavoro come fanno tutti gli altri, altrimenti ci sono persone privilegiate e persone che invece non possono avere accesso ai politici. Questa cosa non me la sono mai posto, se c'è uno che c'ha bisogno cerco di aiutare. Sì, ho capito, però è la classica raccomandazione. No, ma questo ti segue, è la classica... Se c'è bisogno, se uno che c'ha una difficoltà... di una visita medica, di come si istruisce una domanda per avere l'accompagnamento alla ASL. Vabbè, ma quello è un altro discorso, però Ugo. Qui c'è questo Burchi che avrebbe reperito incarichi in favore di persone indicateli da Sposetti. Cioè, tu hai indicato persone per avere dei lavori secondo quello che viene fuori. È una cosa diversa, o no? È sbagliato quello che hanno scritto, perché io ho già detto a due tuoi colleghi. Quello che mi ricordo erano, non erano incarichi, ma erano soltanto occupazioni. occupazione che è cosa diversa, giusto? Beh, occupazione, incarichi, sì, vabbè, d'accordo. No, no, no, sono cose diverse. Uno c'è incarico, è un incarico professionale, se fa l'avvocato, se fa l'ingegnere, se fa l'architetto, vabbè, no, se fa... c'è la cosa, se è uno che ha bisogno di 1200 euro di reddito è un'altra cosa. Vabbè, ma tanti italiani hanno bisogno di 1200 euro di reddito. Ho capito, tesoro mio, ma non vedo perché non mi devo interessare se qualcuno mi segnala. Se tu mi segnali una cosa, se io lo posso fare, la faccio. Ma il politico, secondo me, dovrebbe fare altre cose, dovrebbe occuparsi dei problemi del paese più generali, non piazzare le persone qua e là. Piazzare anche in modo... Poi significa voti piazzare persone, Ugo, lo sai bene, no? Tu hai fatto politica per tanti anni e significa consenso piazzare le persone, o no? No, bisogna vedere come si fanno queste cose. Ci sono in tutte le manifestazioni della vita, ci sono l'etica e i valori. Se tu la fai, vabbè, sì, rispettando etica e valori... Ma certo, non è che fai vincere i concorsi pubblici a chi non deve vincere un concorso pubblico, quello è chiaro. Più o meno hai fatto la stessa cosa che ha fatto Lupi. Io non lo so se ho fatto la stessa cosa che ha fatto Lupi, perché non so che cosa ha fatto Lupi, però non è così come dici tu, Luciano. No, ma non l'hai fatto con tuo figlio, l'hai fatto con qualcun altro, è diverso. Senti, se tu, io mi auguro che tu non sia mai in difficoltà, ma se tu un giorno sei in difficoltà, mi telefoni e io cerco di aiutarti, va bene? Vabbè, questo vabbè, d'accordo, ma io non vorrei che un politico si occupasse, no, di queste cose, tu, capito? Se tu un giorno ti trovassi in difficoltà, sai che puoi fare una telefonata a Ugo. No, ma non è quello, io non vorrei. Lo ripeto per la terza volta: se tu un giorno ti trovassi in difficoltà, e non te lo auguro, perché mai... Ma io non voglio che un politico mi aiuti, che una persona che fa politica passi il suo tempo a... Ma no, ma tu mi telefoni come amico. Ma è diverso, perché tu non sei una persona qualunque, Ugo, tu sei stato e sei ancora parlamentare della Repubblica. Se il parlamentare della Repubblica, vabbè, si mette a... Che devo fare adesso? Mi devo suicidare? Ma no, ma che... Il tuo ragionamento, ma no, che ma figurati, ma che c'entra? Sto dicendo semplicemente che tu fai in sostanza l'elogio della raccolta. Allora stasera reciterò tre ave e tre padre, va bene? Vabbè, ciao Ugo. Ciao. Che poi, ragazzi, come lotta, lo no, lotta, sì, lotta, per carità, è lotta come un leone, come al solito. Però, ragazzi, non si può dire se hai bisogno di una visita medica. Uno la visita medica se la fa da solo, cioè se la prenota da solo la visita medica. Dovrebbe essere l'amico, così, però... l'amico Sposetti ha una concezione della politica che è un po', come dire, antica, che è quella che ha portato, secondo me, poi alla fine anche al disastro di questo paese. Glielo dico anche con affetto, perché sicuramente mi sta simpatico e tutto quello che vogliamo, però insomma, dai, il politico non può passare il tempo a fare le segnalazioni, a dire io raccomando di là, metto quello là nella cooperativa, metto quell'altro lì. Siete proprio delle bestie. Torino, una ventenne incinta di... No, una ventenne incinta di 7 mesi è costretta a prostituirsi. È un nome di fantasia, si chiama Diana, una ragazza di appena 20 anni che ha un pancione palese, un pancione evidente, e viene costretta a prostituirsi dai protettori. Questo viene denunciato da un'associazione di queste per il recupero delle prostitute, no? I clienti ovviamente fanno la no, fila. Ma i clienti fanno la fila. Per... L'ho vista anch'io io. No, sì. I clienti fanno la fila per andare da questa prostituta e per andare con questa prostituta senza preservativo. Sì, ho visto. Cioè, questa è la cosa incredibile. Vorrei ricordare che tra i due chi difende... No, ma che c'entra? Questo tipo di prostituzione, no, io dico, da più strada, invece è di gente occuparsi, come voi, invece gente di... come voi, no, come te, come quelli che ogni tanto chiamano. Non difendo affatto questa roba, no, qui. Ma chiaro che non difendo, ma è ovvio che non difendi, non solo non difendo la questo, penso incinta. Che i poliziotti, invece di occuparsi dei clienti, che sono ovviamente... che ognuno ha le sue perversioni, se uno ha questa perversione qua, purtroppo è malato, che bisogna fare? Cioè, se uno si vuole fare una prostituta incinta ma di 7 mesi... Tu ti ha colpito perché è incinta. No, però no. Scusa, tu ne discuti e ti ha colpito perché ovviamente è incinta, no? Cioè il dettaglio che è incinta ti ha colpito, certo. E ne discuti con raccapriccio, con giusto raccapriccio finalmente, no? Ma è evidente, ma... sì, certo. Oh, no, questo sto dicendo positivamente. Mentre negli altri casi non mostri raccapriccio quando ci sono le altre tante chiave del sesso. No, ma io, a me tutta qualsiasi persona costretta a fare una cosa da un pappone, il pappone va preso. Ma quello l'ho sempre detto. Ma l'80% di quelle che ma sono. No, ma non lo so, che la percentuale può variare. Non lo so. È abbastanza così. Non lo so, non lo so, la percentuale non lo so. Il punto fondamentale è un altro: che la polizia, le forze dell'ordine, le procure della Repubblica, i sindaci si occupino di queste cose qui, ma piuttosto, scusa, che di multare i clienti, che è una stronzata. Ma pazzesca. No, multando i clienti, non succede nulla. Il racket, e multare i clienti ne arrivano altri 100.000 con perversioni superiori. Dai, su. A far la fila davanti alla prostituta incinta, sì, gli andava nell'ordine: A, preso il numero di targa; B, ma spedita a casa la multa; C, gli andava suonato a casa con la foto ognuno della signora incinta, il diritto, dicendo: hai visto il tuo caro marichino compagno cosa ha fatto? Ognuno ha, come dire, la possibilità di sfogare le proprie perversioni, purché non commetta illeciti. Infatti questi qua non commettono nessun illecito, come sai, perché al limite si beccano una multa. Il problema è un altro: il problema è che questa tratta è la priorità, sconfiggere questi qua. Se uno fa con le multe, quello che provo a dire, se da uno un anno è e mezzo. Sulla strada come questa ragazza romena incinta di 7 mesi, appunto, con la coda dei clienti che se la vogliono fare pagando perché è incinta di 7 mesi senza preservativo, che è una bestialità. Il problema non sono, secondo me, questi qua, perché tolti questi qua ne arrivano altri 200. E se li multi, il punto, ma non c'entra niente. Il punto fondamentale è che una cosa evidente, lampante, è lì. Allora prendete questa signorina, la interrogate. Fate uscire fuori sti protettori, che non è che sono lì, no, non sono Totorrina, staranno lì da quelle parti. Allora, beccateli subito e metteteli in galera, invece di passare il tempo a vedere le targhe dei clienti. Chi se ne frega? Entrambe. Ma che entrambe, dai, su. Pensa a un mondo senza mignotte, che tristezza. Cruciani, tu sei d'accordo con me, ma anche Farenzo. Vabbè, calma, ragazzo. Allora, andiamo a Padova, Luigi. D'accordo con te al 100% su quello che hai detto. Mi domando, chi ti ha raccomandato, Cruciani? Ma per andare dove? A me non mi ha mai raccomandato nessuno, guarda, amico. No, mio. Cosa cazzo fai in quella trasmissione? Cioè, se basti tu con questa tua intelligenza lucida e stimolante. Vabbè, guarda, a me hai uno sparring partner che è saccente, lui ha sempre la risposta giusta da dare. Giusta, come se fosse quel che penso, dico, pianeta. Non so se è giusta. Sarà giusta per qualcuno e sbagliata non ti per piace, lei. Non ti piace Parenzo, vabbè, abbiamo capito. Poi a volte ti perdo, perché io mi seguirei tutte le sere, ma qualche volta mi fa incazzare sto Parenzo. Vabbè, poi? È già stimolante. Niente, volevo solo dirti questo, so che a te non piacciono i complimenti, volevo farteli, però mi dà fastidio Parenzo. Ti dà fastidio Parenzo. Bene, molto Americo, bene. Napoli, vai, Americo, è reciproco, manco lo conosci. Americo, beh, Napoli, lui sa quello che dici, tu non lo conosci, sì, lui ha semplicemente detto che secondo lui sei saccente, vabbè. Hai istinto. Calma, ristabiliamo un clima sereno. Calma. Vai, Marico, vai. Allora, Parenzo indubbiamente ha avuto dei trascorsi missini o comunque... No, trascorsi missini, Parenzo mi sembra difficile. No. Diciamo, è stato iscritto ai giovani del PDS o che cazzo erano? Sinistra giovanile. Alla sinistra giovanile. Fronte della gioventù, secondo me fronte della gioventù, perché non lo vedo molto democratico. Cioè, in che senso, scusa? Nel senso che interrompe quando non è d'accordo con qualcuno, tipo con Giovanardi, diventa un po' aggressivo. Che devo fare? Battaglio? Che devo fare? No, devi essere democratico, Parenzo. Scusami. Democratico, battaglio. Vabbè, discuto, ha interrotto, ha discusso. Dai, su, adesso non esageriamo. Ha interrotto, tutti ha discusso. Abbiamo i nostri difetti, tutti abbiamo. Basta smussare un po' gli angoli. Tu, per esempio, ha ragione Viola, sei un po' rattuso, diciamo la verità. Un po'? Rattuso, come diciamo nel Napoli. Cioè, che vuol dire, scusa, rattuso? Un po', sai, rattoso in italiano sarebbe una persona che, diciamo, gli piace un pochino la cosa spinta, gli piace un pochino... Bah, mi piace la cosa spinta. Ogni tanto... Ieri sera la mistress, praticamente, volevi fare la fotografia. Era eccezionale la mistress di ieri, la dominatrice, una che fa i soldi con la dominazione. Qui bisogna creare una nuova rubrica, i mestieri ai tempi della crisi. Sì, questo è giusto. Questa è approvata dai nostri editori. Esatto. Inserendo ancora non sanno però quali mestieri tu perverso non c'è cercando, dubbio. Per esempio, una che ai tempi della crisi si trasforma, invece di fare, che ne so, l'avvocato. Mi ha scritto. Il notaio, eccetera. Bomba 6, mi ha scritto Bomba 6. Che ha detto? Che... complimenti per questa nuova iniziativa editoriale che state lanciando a Radio 24, sì, sui nuovi mestieri. Sui nuovi mestieri. Bene. Puoi rispondere, sì, se ho Bombassei o al signor Squinzi, che in realtà tra i nuovi mestieri ci sono soprattutto i mestieri, come dire, un po' originali. Ecco, tra questi, quello di dominatrice o mistress, la mistress Kelly, la quale si è inventato un mestiere nuovo, cioè quella di dominare gli uomini, cioè accontentare gli uomini nelle loro perversioni, e su questo guadagna dei quattrini. Io non capisco qual è lo scandalo, anzi, no, bisognerebbe esaltare questi nuovi mestieri. Il problema, caro, è conoscere Americo, questi qui che si fanno mettere il collare, però, amico. Vabbè, non solo il collare, guarda, fosse solo il collare, appunto. Guarda, ieri non c'è. La prossima volta, la prossima puntata del nuovo mestiere mistress. Vieni qua che ti frusto e ti sodomizzo. No, non c'è solo questo, c'è dell'altro, guarda, non ne parliamo. Non può essere di più. Ma che... guarda, Parenzo. E facevate passare per normale quella roba. Questo, sì, è il fatto. È vero, questo è il punto, non sì, grave, perché ti dovresti incazzare su questo, sì. No, ma io l'ho detto anche ieri, ma mi avete fatto uscire di cotenna, perché il matto sembravo io, capito, in quel contesto. Americo, dai, che stavi dicendo? Volevo chiedere un'altra cosa a Parenzo, scusami, sì, volevo sapere perché due pesi e due misure rispetto a Lupi, che giustamente si deve dimettere non a porta, ma magari in Parlamento, nei luoghi più consoni, sì, ma con De Luca, con i sottosegretari indagati. De Luca, ho detto anch'io. Su De Luca io sono d'accordo, su quello che abbiamo detto in questi giorni. Sei mellifluo perché praticamente dici cosa e non la dici. Allora, no, per me De Luca non si doveva candidare. Pubblica. Che cazzo c'entra l'opinione pubblica? Pronto? Pronto in linea, Americo Vespucci? Americo Vespucci, in linea? No, con la C, scusami Parenzo, non Americo. Ah, scusi, Americo. Per me, De Luca non si sarebbe dovuto candidare. Sì, ma ho capito perché non si devono dimettere allora quei sottosegretari indagati. Si devono secondo dimettere il criterio. Anche quei sottosegretari indagati. Ho detto semplicemente. Sì, però l'opinione pubblica, questa è una cosa che interessa meno. Ho sentito ieri. Esatto. Che è esattamente quello che c'entra con una indagine, con una. Che significa questo? Non ho capito. Non significa nulla. Significa che Lupi. Mi ha detto una cosa che non significa niente. Significa semplicemente che Lupi è stato fatto dimettere a furor di stampa e a furor di popolo. Secondo me, Lupi, giustamente. Se avesse avuto praticamente un minimo di coerenza, si sarebbe dovuto dimettere seduta a stante, che lui ha anche fatto una circolare ministeriale firmata di suo pugno, esatto, dove praticamente impediva di ricevere regali, esatto, superiori a 150 euro. Vabbè, Americo, diciamo grazie. Che... mi scrive una mia amica dicendo, scusa, ma se uno va a puttane a piedi, che fai? Gli sequestri le scarpe? Se uno non ci va con la macchina, come fai a multarlo? Spiegami. Chiedi il documento e chiedi il documento. Ma dai, su, Francesco Firenze, vai. Patente libretto. Sì, buonasera. Ciao. Dimmi. Dunque, no, rapidamente, riguardo al manifesto dei gay di Bologna, si può dire quello che si vuole, io non mi limito solamente a fare questa considerazione. Al solito questi dileggiamenti avvengono nei confronti della religione cattolica, perché è molto facile prendersela con chi sappiamo che tanto poi non reagirà mai in maniera, sì, scomposta, come magari fanno altre religioni. Tutto qua, ecco, solo questa considerazione. Cioè, non c'è il coraggio di farlo contro gli islamici? Per esempio, vabbè, Francesco, a parte uno non è costretto a fare nulla, se quelli dell'arcigay gli va di fare dei manifesti piuttosto pesanti su Gesù Cristo, la croce, in cui la croce viene utilizzata come un mezzo fallico, non piacerà, lo fanno all'interno dei circoli dell'arcigay. Per me è assurdo che l'arcigay prenda soldi pubblici, per esempio, lo trovo una cosa aberrante. Perché l'arcigay deve ricevere, per che cosa? Per la tutela dei diritti dei gay, soldi dallo Stato, follia totale. Questo è il punto. Poi se li hanno utilizzati anche per le loro iniziative, quello è normale. È evidente che per far funzionare un circolo dell'arcigay utilizzeranno dei soldi dello Stato, ma è alla fonte la questione, è all'origine la questione malata dei soldi pubblici dati all'arcigay. Dopodiché, ripeto, non hanno fatto manifesti per strada con il fallo a forma di croce o con quelli nudi che godono, ma in realtà sono Gesù Cristo. Hanno fatto dei manifesti all'interno di un circolo e chi se ne frega. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Cosa succede nel mondo a 5 Stelle? Senti questa deputata, come cazzo la si dice, Ciprini, si chiama Ciprini, la quale prende la parola alla Camera e attacca il baronetto, così lo chiama Elton John, cioè difende Dolce & Gabbana, ma non lo difende per la famiglia tradizionale, eccetera, eccetera, perché pensa che ci sia un grande complotto il grande complotto anglo-americano contro il Made in Italy. Ancora una volta però, dopo il caso Barilla, un'altra azienda italiana, simbolo mondiale del Made in Italy, viene presa guarda caso di mira. Vorrei dire al baronetto che io sto in commissione lavoro e mi confronto quotidianamente con la piaga della perdita del lavoro a seguito delle crisi reali e indotte. Ci mancava solo un multimiliardario anglo-americano annoiato a lanciare fatue contro le nostre aziende. Spettacolare, un anglo-americano annoiato che lancia fatue contro le nostre aziende. Chi ha mandato in Parlamento questa Ciprini persona? Anch'io l'ho mandato in Parlamento. Chi ha mandato in Parlamento? No, anch'io ho mandato la signora Ciprini, che però è molto simpatica. Sì, perché per immagina carità, circo che ci costa 12.000 euro al mese. Guarda, per carità, non sono tanto peggio di altri parlamentari ladri. Di altri parlamentari ladri. Carissimo ci costa il circo. Allora, questa signora Ciprini non pensa che in realtà Elton John abbia detto una cosa così perché gli girava il culo in quel momento. Pensa che dietro Elton John ci sia una specie di complotto contro il nostro Made in Italy. Il complotto! Intervengo per stigmatizzare il metodo meschino, cioè l'operazione di boicottaggio lanciata dal baronetto inglese Elton John ai danni dei prodotti del gruppo Dolce Gabbana. Colpevoli per il baronetto di reato d'opinione sul complesso tema dell'intervento della tecnica nella riproduzione, solo perché non precisamente corrispondente alle sue scelte di vita. E adesso l'inglesino dice deve chiedere addirittura scusa, l'inglesino. Ricordo all'inglesino che 9 milioni di italiani di tutte le età sono in sofferenza lavorativa, secondo gli ultimi dati Eurostat, e che siamo sempre più un paese colonno dei poteri finanziari centrali del nord Europa e statunitensi, che ci stanno riducendo in un popolo di schiavi. Pertanto chiedo all'illustre baronetto di chiedere scusa in primis ai lavoratori italiani del gruppo D&G. Ma questa qua, ma non si vergogna? Cioè uno dovrebbe impedire, chi è il capogruppo dei 5 Stelle? Chi ha mandato in Parlamento queste cose? Ma lascia perdere chi ha mandato in Parlamento. Ma come si cazzo si fa a dire che questa roba qui ha a che fare con, che ha detto, con il potere del mondiale del nord Europa? Hai voluto i 5 Stelle? Ma che cosa, i 5 Stelle? Cosa c'entra questa vicenda con le guerre di commerciali o comunque con la rivalità tra le aziende? Nulla, zero, non ma c'entra ti fa nulla. Un po' male sapere che hai, ma no, ma che me ne che frega. Hai contribuito a questa roba. Ma tu hai un'idea del voto che è quella che, siccome tu sei stato comunista, tu pensi che l'idea del voto ti si appiccichi addosso. Ti ho detto tante volte che non sono sei stato comunista perché non c'era più il Partito Comunista Italiano nella FIGC. Ma ti saresti iscritto al Partito Comunista. Comunque il problema, no, forse mi sarei iscritto alla lotta continua. Ma lotta continua comunista, insomma, a te, per te la politica è una cosa di appartenenza. Io quando voto mi sono dimenticato di quello che ho votato e non me ne frega nulla. Beh, amici miei, c'è qui l'uomo che rappresenta la storia dell'arcigay, quelli che hanno realizzato quei manifesti con la croce utilizzata come strumento fallico, come strumento sessuale. E con quelle tre persone, diciamo, no, vestite da Gesù Cristo. Solo che quei manifesti sono rimasti all'interno di un circolo arcigay, non erano dei manifesti in mezzo alla strada. La gente si è sdegnata, il comune pure, perché altre persone hanno detto utilizzate questi soldi in questo modo, vergogna, eccetera eccetera. Ebbene, io penso che siano più gravi le parole di Don Livio Fanzaga oggi a Radio Maria. Dunque, l'utilizzo della croce, come ha fatto il signor Don Livio Fanzaga, dicendo che di questo passo, se ci saranno le unioni gay, se ci sarà l'adozione, eccetera, eccetera, si arriverà all'unione con gli animali. Penso che sia più grave quando Don Livio Fanzaga, speaker di Radio Maria, dice che i figli sintetici, i figli nati dalla procreazione assistita, sono come quelli che vengono fuori dalle fabbriche di Marchionne, ci ha paragonato i figli alle macchine. È più grave questo di un manifesto scherzoso, divertente dell'arcigay. Se qualcuno si è offeso, pazienza. A Grillini, io difendo l'arcigay meglio di voi, questa è la realtà. Bravo, bravo, continua così. Che cazzo, dai, come stai? Franco Grillini, presidente onorario dell'arcigay, buonasera. Sento. Come andiamo? E poi, ma bene, anche perché adesso questa vicenda ci ha fatto vedere come a Bologna non è che ci sia una gran differenza tra destra e sinistra, tra clericali e anticlericali. No, dici? Sono tutti uguali. Alla prova dei fatti, quando succedono ste cose, tutti schierati con l'arcivescovo. Tutti con Caffarra, che poi è un gran conservatore, diciamo la verità, no? Voleva chiudere le discoteche alle 8 di sera. Cioè, Caffarra è uno che pensa che tu sei un porco perverso, diciamola tutta. Hai mai avuto qualche colloquio con Caffarra? Come ti definisce, signor? No, è che tutte le volte che ci vediamo per una qualche roba di cerimoniale, che adesso non mi capiterà più perché sono scaduto come gli yogurt da questo punto di vista, dal 28 dicembre non sono più consigliere regionale, appena mi vedeva in una di queste cose pubbliche veniva a darmi la mano, io rimanevo un po' stupefatto perché si vede che quella è la prassi, il protocollo. La forma. Voglio capire una cosa: questi manifesti, qualcuno si è offeso? Meno male, però, che non stati. Ma non sono manifesti. Vabbè, manifesti che sono? Erano delle foto. Sì, sì. Facevano il verso alle copertine di Charlie Hebdo. Esatto, sì. Che sono state messe sul sito, quindi una roba che è avvenuta in un circolo privato, chiuso, quindi non in un locale pubblico. Beh, oddio, però su Facebook poi sono andate. Sono delle foto messe sul sito, non neanche su Facebook, sul sito del circolo. Sul sito del circolo, sì. Ha creato questo pandemonio. Sì. Perché ma tu come le consideri quelle foto? Bologna non aspettavano altro che avere una scusa per pisciare in testa una delle robe che funziona meglio nella città, una delle robe storiche, siano lì. Vabbè, sì, non lo so se funziona meglio, però insomma, anzi, l'Arcigay compie 30 anni proprio quest'anno. Però Franco, scusami un attimo, ma l'Arcigay prende i soldi, perché la polemica è sui soldi, no? La polemica è sui soldi. Infatti, io oggi ho chiesto al segretario locale del PD, ho visto adesso che mi hanno attribuito questo titolo, Grillini PD come destra, qui là dire. Ho fatto una lettera aperta un po' incazzosa al segretario del PD, perché il segretario del PD, il neo eletto cuperliano di ferro, perché a Bologna sono tutti cuperliani, no? E per fortuna, perché se non erano cuperiani adesso sarebbero già dato fuoco senza bisogno di passare per... Perché la sinistra del PD è peggio delle altre, no? Capito? Allora, questo qui ha chiesto subito l'azzeramento del finanziamento pubblico e la chiusura della convenzione, cioè che ci buttino fuori. Cioè, ma voi prendete i soldi o no? Ma ti piglia i soldi, ma quelle attività ricreative, mica attività. No, ma prendete i soldi. Si prendono per l'attività istituzionale, la biblioteca, il telefono amico, il centro di assistenza, l'attività di accoglienza, l'attività di aiuto. Ma perché alle scusa, come altre cooperative? Ma cioè, perché il comune ci dà 10.000 euro, mica miliardi. 10.000 euro l'anno, ma perché il comune deve dare soldi all'Arcigay? Io questo non lo condivido. È per l'attività pubblica che fa con il volontariato, che i soldi 10.000 gay diventano come valore più di 100.000 euro. No, vabbè, questo ci può stare, non è questo il problema. Sì, ma ho la capito, però Franco, scusa, a gratis. Franco, ho capito, ma l'Arcigay non è che sia il 10.000, non è la Caritas, si trasformano in un bene collettivo. Ma non è la Caritas però, la clinica per i finanziamenti è totalmente destituita di fondamento e ti spiego perché. Perché se si parla di finanziamenti da parte del comune al Cassero, si devono parlare anche dei finanziamenti che il comune dà a tutti. E guarda caso il comune dà 2,5 milioni all'anno di finanziamento alle scuole clericali, dove si dice che i gay fanno schifo, che le donne che abortiscono sono assassine, eccetera eccetera, no? Sì. E lì non si scandalizza nessuno, dove magari c'è anche qualche prete che allunga le mani e lì non si scandalizza nessuno. Io non ho mai sentito reazioni così irate. No, vabbè, questo no, ma è chiaro che la reazione è spropositata, su questo ha ragione. No, c'è proprio... Allora io voglio dire, a Bologna c'è stato un referendum dove il 65% dei bolognesi ha detto no al finanziamento alle scuole cattoliche, o non 3 o 4, il 65%, contro il 35% che ha detto sì. Allora, su 10.000 euro al Cassero c'è un pandemonio, adesso vedo qui la Meloni, serata eretica, uno schifo. Sì, serata eretica, ma chi se ne frega di quello? Ma vai a cagare la Meloni, sì, però il problema fondamentale, vai a cagare la Meloni, abbiamo registrato, abbiamo sentito, però, ma infatti su questa hai ragione tu, non ci si può scandalizzare sul fatto che l'Arcigay a casa sua faccia il cazzo che vuole, soprattutto metta i manifesti che vuole, faccia le vignette che vuole, eccetera, eccetera. Ma secondo te il ragionamento è questo: un mese fa erano tutti Charlie Hebdo, adesso sono tutti al Baghdadi, no, a Bologna. Spiegami una cosa, ma tu queste foto qua, no, con questa croce utilizzata come fallo, con questi vestiti da Gesù Cristo, eccetera, ti piacciono queste cose? Dimmi la verità, dimmi la verità. Non le avrei fatte, cioè io personalmente, per quanto riguarda me, essendo io un anticlericale conseguente, non bestemmio, non faccio quelle robe lì, eccetera eccetera, perché sono un anticlericale. La mia filosofia di vita è che se io faccio quelle robe lì divento una specie di clericale a mia volta, però questo non vuol dire. Ma tu hai fatto qualche volta nella... montare tutto sto no, vabbè, ma questo d'accordo, quella cagata lì. Ma tu hai mai fatto sesso? Hai mai fatto sesso in chiesa? Eh? Hai mai fatto sesso in chiesa? Io? Era una fantasia che ho sempre avuto, ma non mi è mai capitato. Non ti è mai capitato? La grande fantasia. L'avevo quando ero cattolico, notiamo. Poi quando ho smesso di essere cattolico. Ma ti sei sbattezzato? Ti sei sbattezzato? Dove posso fare tutto quello che mi pare e dove c'ho la doccia portata di mano. Questa è la mia filosofia sessuale. Senti, ma ti sei sbattezzato anche tu? Perché ho visto che c'è pure uno sportello per sbattezzarsi lì a Bologna. No, ma se continuano così lo farò anch'io. Ah, addirittura, mi sbattezzo. No, ma sai, in realtà la cosa che gli ha fatti incazzare non è tanto, perché la cosa del sesso è sempre un pretesto. Che sia un pretesto lo si vede, ci sono no, buttati tutti del a pesce, no? Dai. Lo vedi in questi casi come viene fuori la sessofobia, perché sembrano tutti liberali, libertari a parole, poi quando si parla di sesso diventano tutti delle Santa Maria Goretti, no? Come se nelle loro vite private non ne facessero di ogni, e come se tutti non sapessero tutto di quello che uno fa nella sua vita privata, compreso i politici bolognesi. Allora, il punto qual è? Che la cosa che gli ha fatti andare giù di testa è la storia dello sbattezzo. Perché? Perché cosa vuol dire sbattezzarsi? Vuol dire chiedere alla chiesa dove ti hanno battezzato di cancellarti. Non è che si fa un rito, no? Alla io non capisco, Satana, non capisco. Si cancella lo sbattezzo. No, non capisco però che importanza abbia sbattezzarsi. Adesso, francamente, beh, mi sembra. Sai, è un atto politico. Sto cardinale di Bologna dice che i gay sono contro natura, che sono distruttori della società, sì, che minano le fondamenta della vita civile. Poi vatti a vedere chi vuole godersi. Ma anche Fiore, anche Fiore di Forza Nuova ha fatto l'altro giorno. Quello non lo considero neanche, il vomito di Fiore non lo considero neanche. Addirittura. Quello del vescovo purtroppo mi tocca di considerarlo. Ho letto sul giornale che qualcuno ha scritto che Barilla ha dato i soldi all'arcigay dopo lo scandalo. L'ha scritto Mario Giordano, sì. Sì che ci sta una bella querela, perché magari fosse stato vero. No, la balla. No. Cioè Barilla non ha dato soldi all'arcigay? Assolutamente, nella maniera più assoluta. Come mai l'ha scritto? Ah, perché Mario Giordano è una brava persona, come noto. Mario Giordano, ogni volta che si parla, anche lui, quando si parla di sesso, quando si parla di diritti civili, è uno che mette mano alle pistole. Addirittura. Dire che è fazioso è dire niente. Hai capito? Con la sua vocina scrive delle cagate mondiali. Addirittura. Con la sua vocina lì è querelabile. Addirittura, perché ha detto che Barilla ha dato i soldi al movimento gay, quello sì, magari non all'arcigay, ma al movimento. Soldi dalla Barilla. Siccome non è vero, il bolognese Anebrisa Vaira, visto che siamo a Bologna, hai capito? Quello lì è querelabile, perché ha detto una cosa non vera. Dichiarare il falso e calunniare. Vabbè, mi sembra esagerato, dai, su. Calunnia, e quindi, hai capito, potrebbe essere querelato. Ma siccome ha detto che si riferiva solo alle maggiori associazioni, io invece sono presidente di GayNet, che è una piccola associazione di giornalisti omosessuali, non tocca a me fare la querela. Allora andiamo Roberto Padova, vai Roberto. Cari belle gioie. No, però parla bene Roberto, non mi fare incazzare, dai. Belle gioie, ho detto buonasera, ciao, no, come ti devo dire? No, ma sento male, comunque vai Roberto, dimmi. Come senti male? Sarà al telefono allora. Vai, tranquillo, vai. Comunque, ascoltami qua, è possibile che ne avrei tante cose da dirti, però questa volta cerchi di concedermi qualche minuto, perché eventualmente la prossima volta non succede che ti chiami fra un anno o due, come magari può succedere, capisci? E guarda che se ti chiami cosa? Tu prima aspetta, di questo periodo potrei costare 5.000 euro 5 minuti, mi sono spiegato, in nero ovviamente. Cioè, non ho capito. No, ma sono le 20.39. No, continua Roberto. Prego, continua. Avanti. Quello che volevo comunque dire... Mi pare che ieri giusto hai detto o no che è follia da parte di certi gay, l'hai detto o no te? Manca però, scusi, manca il soggetto, il verbo e il complemento oggetto. Per il resto, tutto a posto. Ascolta, Parenzo sa, cuccia regolo te siega la virgola te cademi. Guarda, che manca tutto. È una frase dove non si capisce in casso. Ti dico solo questo. Francesco, Parenzo. Francesco è un altro, è un papa. Ma. Parenzo. Niente è più facile la chiacchiera, pertanto Parenzo, metti in moto il cervello prima della lingua, per favore. Mettere in moto. Guarda, può farci capire il senso della telefonata? Il senso della telefonata è che, giusto ieri si parlava che il Crociani diceva che c'era della follia quando che si parlava del Volta Gabbana e del baronetto la Elton John. Allora, giusto? Vabbè, sì, dunque? C'era la follia in effetti è... E in effetti sono menti malate i gay. Ah, menti i gay, sono, i gay quindi, sono menti malate, quindi, ho capito. Finché uno è omosessuale e sta nella sua dignità contenuto, sono d'accordo, lo sono anch'io, va bene. Ma quando uno con quell'esibizionismo, sì, con la forma di demenzialità galoppante, è inconcepibile. Cioè, ma i gay... sono solidale anche. Scusami Roberto, che cosa sono i gay secondo te? Sono ammalati, alterati nel cervello. Vuoi capirla che un referente, il bambino da piccolo, deve averlo la mamma e il papà. Non siamo dagli albori della vita. Non è che si nasce tra coppie, tra copulare, tra uomo e uomo, o tra donna e donna. Mi sono spiegato. Beh, quello è abbastanza chiaro, sì, che sì, si è spiegato molto bene. Dunque, sono malati i gay, sono malati. Sono altro che malati quando hanno quelle alterazioni. Poi sappi che vi ripendio alla religione, quella vignetta la satirica. Altra cosa volevo dirti. Vilipendio alla religione, non esiste più per fortuna. Poi? Va bene, ascolta, quel giudice poi forse ti ha dato a Taormina quei 10.000 euro che io sì, sono visceralmente contro l'ordine evocato del compiacente benestare del giudice e via via, perché sono un'associazione delinquere, te la posso assicurare se vuoi, nome, cognome, indirizzo. Sì, però, certo, nome, cognome, indirizzo, tutto, sì. Nome, cognome, indirizzo. La matassa di parole, è difficile. Vabbè, Roberto, trovare... allora Taormina non ho capito che ha fatto? No, sono d'accordo, perché quel giudice che ha condannato Taormina, solo la mente alterata anche quello, perché la libertà della persona fisica al movimento, diritto pensiero di coscienza, cioè è quella che multa che avrebbe preso Taormina. Quel giudice vorrebbe costringere Taormina ad assumere chi non vuole, ma quel giudice conosce cosa significa incompatibilità coatta. Comprendi quello che voglio dire? Incompatibilità coatta. Incompatibilità coatta. Che se a me non va di stare con una persona, ah, ho capito, non vado a stressarmi, a distruggermi, a lavorare il mio cervello o a distruggermi. Scusami, Roberto, ma se un gay ti corteggia, sì, ma lei è già andato. Se un gay ti corteggia, che succede? Ascoltami. Cerca di capire Crociani. Sì, no, ma se un gay viene vicino a te, tu che fai? Fermati, lasciami che te l'ho già detto questo discorso. Il primo qua a Padova, che proprio per protesta, quando dicevano cappelloni, che io avevo sempre avuto, anche adesso li ho corti, sì. Ma avevo sempre avuto capire spazzola, faccio molto sport anche, se vuoi sono passato 100 volte per i giornali qua, del Veneto, anche d'Italia forse, ma d'Italia meno, qualche volta solo per i giornali. A che fare? Perché sei passato per i giornali? Non ho capito. Chissà perché. Vuoi che tu la mamma cognome dopo lì? Questo qua giustamente mi suggeriscono nello spazio psichiatria, cioè siamo a livelli, a livelli di veramente di fuga dall'ospedale che non esistono più, cioè di fuga dai TSO, cioè zona Basaglia. Cioè, Roberto, ma lei è veramente uscito da questa sera ci vuole veramente una doppia razione, una doppia siringona, no? Come? No, ho detto alza la voce anche te, perché sennò non capisco niente. Ma io, tu non capisci niente di tuo, purtroppo. Non capisci niente di tuo. I gay hanno la mente alterata. Blateri, Sauro, Luca, vai. Sauro, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Parte sentire queste cazzate di questi imbecille, veramente. Allora? Omofobico. Allora, io sono gay, cristiano praticante. Allora, condanno l'arcigay per aver fatto una cosa del genere, perché è veramente una cosa disgustosa. Vabbè, perché? Allo stesso punto condanno la Chiesa perché dicano quelle parole che noi siamo verdi, siamo degli alieni ancora nel 2015. Però io sono contrario all'adozione di bambini per coppie gay, perché in Italia nel 2015 ancora si prende in giro nelle scuole, perché i bambini fortunatamente hanno questi problemi, l'obesità, dei bambini, un bambino grasso, un bambino con gli occhiali, immaginiamoci cosa deve subire per i primi 14 anni di scuola un bambino che viene adottato da due genitori gay. È vergognoso. L'Italia non è pronta ad avere. Ma non è vero, ma non è così. Ma queste stronzate, l'Italia non è pronta. Ma che vuol dire? Io rispetto la sua opinione, per carità, però non fermi, è vero. Fermi tutti. Fermi che tutti. Succede? Che succede? Tweet di Roberto Formigoni. Sì, allora. Gesto di Lupi è atto non dovuto. Non è indagato. Nasce da concezione alta della politica. Ma è evidente che ora si apre questione indagati PD. Ma sì, vabbè, ma ce l'ha detto Giovanardi anche ieri sera. Se si dimette Lupi, se Renzi costringe Lupi alle dimissioni, adesso deve far dimettere i quattro sottosegretari del Partito Democratico e De Luca. Ma che fanno saltare tutto? Non fanno saltare niente. Figuriamoci se fanno saltare tutto. Hanno ottenuto qualcosa. Sì, vabbè, ma chi se ne frega? La gente non capisce queste cose. De Luca del Partito Democratico è condannato in primo grado ed è candidato a diventare il governatore della Campania. Io adoro De Luca. Dopodiché, se fanno dimettere Lupi, De Luca che deve fare? Deve essere impiccato, dai, su. Poi ieri Giovanardi ha detto anche un'altra cosa, cioè che ha aperto la questione Renzi, che ha un padre accusato di bancarotta. Di bancarotta per una società che versava poi i contributi fittizi del figlio. Questo non c'entra. No, non c'entra, però cioè, c'è anche questo, no? Certo, il padre non ha incarichi. Ma soltanto un genio come Giovanardi poteva fare doppio carpiato. Allora, forse c'è un nuovo Ferrero, ragazzi. Un nuovo Ferrero a Varese. Il nuovo presidente del Varese si chiama Cassarà. Ti assicuro che è un personaggio strepitoso, non so se replica, non so se è come Paganini, ma la prima è stata eccezionale. I tifosi lunedì devono tornare a casa senza voce. Vogliamo cori ultrasonori, vogliamo cori al genoma esplosivo, vogliamo le curve, non sto a dire quali, lo sanno loro, con gli shot, con gli scoppi, con le bordate. Diamo quello che siamo. Il valore del potere del calcio a Varese. Gli uomini vivono con una logica che è quella razionale del bene e del male. Il bene quando sopraggiunge ci fa sorridere, il male, come nel mio caso, quando mi ha raggiunto mi ha solo determinato a una conservazione di me stesso, guardandomi chi sono, mettendo sempre avanti il mio essere per le caratteristiche che mi hanno caratterizzato praticamente dal mio inizio professionale, dal mio esordio professionale. Avete capito qualcosa voi qua, la supercazzola del bene e del male? Senta, qual è il giocatore del Varese che l'ha impressionato di più quest'anno? Quello che, come si chiama? Mirto che... Mirto Pereira, l'altra volta che sei venuto a vedere, mi ha detto, questo qua come fa a giocare? Allora, il mio ragionamento è semplicemente storicistico, no? Applicato. I miei preferiti, i miei idoli sono quelli classici che voi benissimo conoscete, no? Da Platini, Michel, l'altro come si chiama? Pelé, Maradona. Maradona un altro di quelli che ha avuto il male dietro. Strepitoso, è Cassarà. Non sa niente di calcio. Sì, si sentiva manco i nomi dei suoi giocatori. Ma quelli li so anch'io. Carlo Alberto, vai. Sì, da Varese casualmente, vai. Carlo Alberto. Buonasera Cruciani. Sì, vai, dimmi, da dove parli? Dalla caverna? Dall'auricolare? Da che cosa? No, direttamente da un iPhone. Vai. Riferimento subito. Cruciani, volevo dire a te. Sì. Ma tu sei Dio per giudicare. Ma per giudicare cosa? Scusa, mi spiego. Per giudicare qualsiasi considerazione che venga passata da chiunque. In particolare, scendiamo nel concreto. Un mesetto fa ha dato dei coglioni a tutti coloro i quali hanno acquistato un Moncler, perché costo di produzione $10, €10, quello che si vuole, è impossibile pagarlo più di... Per me uno che spende 400-500 euro, stavo facendo un esempio, per comprarsi così, lo considero un coglione. Se hai detto, un cellulare, chi se ne frega? Se hai un cellulare col costo di acquisto superiore a 10 euro, è un coglione. Ma che c'entra, dai, è diverso. No, c'entra, perché tu gratuitamente non puoi... Ma qual è il problema adesso? Non ho capito. Ognuno rispenderà come vuole. Ma soltanto riferirti a questo. I famosi i gay di Bologna. Ah, con ecco, andiamo a parlare di questa roba. Dimmi. No, i gay di Bologna con quelle scenette. Ma per quale motivo tu puoi giudicare, tu ti puoi permettere di chiamarli froci perché hai avuto l'autorizzazione del presidente dell'arcigay, quello che si vuole, e tu li chiami froci? Io li chiamo froci ogni tanto, non sempre, ma non in senso dispregiativo. Non in senso dispregiativo. Certo. Ma questo lo dici tu. Ma questo lo dico io, lo so come li chiamerò, no? No, ma è vero che sono cazzi tuoi, assolutamente. No, ma voglio se... tu li chiami froci, tu sei autorizzato a chiamarli froci, però se io incontro un omosessuale, per cui assolutamente nessun problema al mondo, e lo chiamo frocio, questo si rivolta verso di me. Ma tu chi sei? Ma tu sei Dio? Ma che c'entra? Ma tu che cosa comunichi con la tua trasmissione? Che devi continuamente, senti, continuamente contestare chiunque, senti, e amico, passare la tua idea come se fosse... A parte che non certo, ma penso il verbo. Ma chi ha detto che è il verbo? Io ma ho detto, io dico come la penso, sei tu che pensi di mi attribuisci. Io ti comunico come la penso. E vabbè, allora come la penso, e allora la penso, e allora no, allora è semplicemente grazie alla Zanzara e a Radio 24 che mi ha dato la possibilità di passarti questo messaggio. Non sei che... Dio, ma e tante, già lo sapevo, tante volte sei già un po' un coglione. Già lo sapevo, la seconda parte, beh, quello è De Gustibus. Perché hai dato del coglione De Gustibus. Tutti gli italiani che hanno comprato un Moncler. No, quelli perché che spendono, non mi ricordo, non mi ricordo qual era l'esempio. L'esempio era un... No, io me lo ricordo meglio di te. E tu sei in giro con un iPhone che costo di produzione $8 in Cina. Sì, ma... E l'hai pagato, forse, se l'hai pagato. Infatti spendere io a parte che non li spendo 1000 euro per un cellulare, 800 euro per un cellulare, non per so, cui non ma no, te lo dico io, ma lo saprò quello che ma spendo, no? Cosa, ma lo saprò. $8, sei un coglione. Vabbè. Ciao amico mio, ciao. A domani 18:30, ciao. Andate con affanculo e finisce la questione, insomma. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Hai ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.